Europa 24. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro al Quirinale con i deputati italiani del Parlamento europeo. L'Europa deve uscire da una logica emergenziale che la rende debole e meno credibile anche per porre le basi di una nuova fase di crescita. La ricerca di nuovi equilibri fra Stati membri, Unione, corpi sociali e cittadini, ha aggiunto Mattarella, è oggi una necessità storica indifferibile. Il Parlamento europeo non è una proiezione esterna rispetto al nostro Paese. L'Italia è membro fondatore dell'Unione e la sua cultura e la sua storia ne contrassegnano fortemente l'identità. L'Europa rappresenta il nostro destino e ancor più una grande opportunità democratica. Se oggi non vi è abbastanza Europa nella vita dell'Unione, come ha detto da recente Jean-Claude Juncker, tocca a noi comprendere le ragioni e colmar lo scarto. È con questo spirito che sarò con voi a Strasburgo nella sessione plenaria del 10 novembre, rispondendo all'invito del Presidente Schulz. Ed ora andiamo in Lussemburgo, dove sono riuniti i ministri degli esteri dei paesi membri. Sul tavolo la questione siriana, ma dopo la strage di sabato ad Ankara anche la vicenda turca. È molto complicato definire come positivo o negativo l'intervento in Siria della Russia, ha detto arrivando l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. La cosa rappresenta una svolta, ma elementi molto preoccupanti per le violazioni dello spazio aereo turco. A pochi giorni da un sanguinoso attentato ad Ankara e mentre la situazione in Medio Oriente rimane molto delicata, i ministri degli esteri dell'Unione sono alla ricerca di un compromesso sul modo in cui l'Europa vuole porsi nella crisi siriana. L'interrogativo riguarda il futuro dell'attuale presidente Bashar al-Assad. Il dibattito è tra coloro che ne vogliono l'immediata esautorazione e tra coloro che vogliono invece organizzare una transizione ordinata preservando Assad finché un futuro regime non sarà insediato. Tra questi paesi, l'Italia, come ha spiegato stamani qui in Lussemburgo il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Il timore di molti governanti europei è di creare in Siria crisi come quelle irachena e libica, dove la partenza, o meglio l'uccisione del dittatore, ha lasciato sanguinosi vuoti di potere. La stabilizzazione del vicino Oriente è ormai al centro delle preoccupazioni dei 28. L'attentato di sabato in Turchia mostra come anche questo paese sia in bilico. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. L'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa ha fatto sapere che problemi significativi ha nominato l'integrità del voto presidenziale in Bielorussia, che ha visto la rielezione di Alexander Lukashenko. È chiaro che la Bielorussia ha ancora una lunga strada davanti per coronare i suoi impegni in fatto di democrazia, ha dichiarato Kent Arsted, capo della missione degli osservatori OSCE, secondo cui alcuni problemi significativi, in particolare nella conta e nella tabulazione dei voti, ha nominato l'integrità delle elezioni. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.